34. C'è un orso nella foresta. Ogni notte esce per sgozzare gli animali. Le sue zampe, lorde di sangue, raspano alla porta. Il pallore del viso, liscio come avorio, faceva risaltare il contorno degli occhi e delle labbra rimolli. Indicò a Joseph il limitare della macchia d'alberi, dove le frasche erano scosse con violenza. Joseph percepì la presenza della bestia ed ebbe paura. «Di a mio figlio che deve ricacciare il leviatano nell'abisso, nel profondo della foresta che l'ha partorito, là dove il sole non riesce a penetrare». Joseph avrebbe voluto chiedere perché doveva essere Peter a rischiare l'impresa mortale. Molly si erse, immensa, lo sguardo era una fiamma nera. «La strada, ritroso, ti porta a quello che eri, non a ciò che sarai. Va, e quello che devi fare fallo presto». O non ci saranno arcobaleni, né buoni aspici, né raccolto. Perché, Peter? Ciascun anello della catena si trova nel posto esatto. Non puoi vedere l'inizio della catena e la sua fine. Nemmeno io posso. Nemmeno i morti. Dalle colline giunse un ululato di avvertimento. Quando Joseph tornò a guardare la sorella, al suo posto una lupa correva in direzione del richiamo. Gli animali selvatici si rintanarono. La tartaruga scivolò più a fondo nella melma dello stagno. Il sole si eclissò. L'ultimo raggio di luce toccò le ali di un'aquila. Dal fitto della vegetazione, l'orso, enorme e feroce, avanzava, schiantando rami e piante. Al risveglio, Joseph trovò i guerrieri pronti a partire. Molte coperte erano già arrotolate e i primi battelli solcavano il fiume. Per i Mohawk la campagna del Canada era finita. I larici ingiallivano, era tempo di cacciare e prepararsi all'inverno. A casa, moglie e figli subivano le angherie dei coloni. Qualcuno sarebbe tornato subito a Canajoharie. I più saggi, o i più compromessi, avrebbero svernato a Oswego. Partivano anche Cormac MacLeod e i suoi Highlander. Sir John era in pericolo, la guardia d'onore tornava a proteggerlo. Joseph sentiva nostalgia di Susanna e dei bambini. Se fosse stato a casa, quella sera si sarebbe sdraiato a letto e avrebbe dimenticato ogni guaio. Almeno per poche ore, ma non poteva tornare. Lui era Thayendanegea, lega due bastoni, destinato a unire Mohawk e Bianchi, il lascito di Sir William in punto di morte. In fondo che fa un interprete, se non accoppiare le parole, gli uomini e le cose? Joseph era una creatura del dipartimento, cresciuto sotto l'ala dei Johnson. Se il sole della famiglia si fosse oscurato, lui per primo sarebbe rimasto al freddo e dopo di lui l'intera nazione. Doveva decidere anche per Peter. Il ragazzo era un Johnson ed era un Mohawk. Aveva combattuto ed era stato all'altezza, ma ora Molly voleva da lui qualcos'altro. Avrebbe potuto parlare del sogno con i guerrieri più anziani, ma anche Tecarioga si stava congedando. La tartaruga tornava allo stagno, con formule d'augurio e secche parole d'auspicio per chi restava. Joseph non avrebbe saputo dire chi avesse più bisogno dell'aiuto del cielo, se chi rimaneva o chi si accingeva a tornare. Vide Orognateca e Canenonte, l'uno accanto all'altro. Fissavano il centro del fiume. Ai loro piedi, coperte, armi, due borracce. Si avvicinò per salutarli. «Torna a casa anche tu, Thayendanegea», disse Canenonte. «La guerra qui non è come la sognavamo». «Combatteremo a Canajoharie», aggiunse Orognateca. «Se resti qui, i ragni faranno la tela intorno al grilletto del tuo fucile». «Quel che accadrà a casa dipende ancora da quel che accadrà qui», rispose Joseph. «E questo dipende anche da me». Oltre il fiume Joseph sentì odore di pioggia e una fitta amara in mezzo al petto. Orognateca si grattò il mento, pensoso. «Tu sei mio fratello, Thayendanegea», disse Canenonte, «ma parli come uno di quei politici bianchi». Joseph sorrise. «Le mie labbra torneranno a bagnarsi con l'acqua del Mohawk, ma non ora».